Radio 24 Reportage. Le amministrative di Radio 24. Roma sfida al Campidoglio per superare il degrado, con un occhio a Palazzo Chigi, di Elisabetta Fiorito. Dal Campidoglio a Palazzo Chigi il passo è breve, la sfida per la conquista di Roma è ufficialmente locale, ma non può non avere anche risvolti nazionali. E il Premier Matteo Renzi si convince a scendere in campo in una competizione che vede in pole position, secondo gli ultimi sondaggi pubblicati, Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle e a seguire, quasi a pari merito, Roberto Giachetti del PD, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, Alfio Marchini indipendente appoggiato da Forza Italia e in corner riammesso Stefano Fassina di Sinistra Italiana. 13 candidati sindaco in tutto, ma la sfida vera sarà al ballottaggio. Dopo il primo cittadino marziano, Ignazio Marino del PD, lo scandalo Mafia Capitale e il funerale del capoclan dei Casamonica, i problemi a Roma sono tanti. Buche, raccolta indifferenziata dei rifiuti a Roma, si sa, autobus. Virginia Raggi. Soprattutto con una seria politica di attacco anche agli sprechi, perché noi abbiamo bisogno di liberare risorse per poterle investire in servizi, cosa che sino ad oggi non è stata fatta. Con la commissione revisione della spesa abbiamo individuato oltre 1,2 miliardi di sprechi e mancati incassi l'anno. Questo non ce lo possiamo più permettere. Roma deve rinascere, deve essere rilanciata e per farlo ha bisogno di non sprecare neanche un euro. Roberto Giachetti. Tutti i problemi di cui lei ha parlato, per risolverli dobbiamo innanzitutto cambiare la struttura amministrativa di questa città. È vecchia e quindi renderla molto più moderna, molto più trasparente. La trasparenza aiuta anche a controllare meglio e renderla più efficiente in tutti i suoi settori. Giorgia Meloni. Beh, su tutte queste cose che lei ha elencato abbiamo delle idee molto chiare. 75% di raccolta differenziata in 5 anni si può raggiungere chiudendo il ciclo dei rifiuti, cioè trasformando i rifiuti che differenziamo in una filiera produttiva. Stessa cosa vale anche sul tema del trasporto pubblico. Chiaramente servono le linee, serve aumentare le tratte, serve finire la metro C, però serve pure pagare il biglietto. Allora c'è un lavoro importante che va fatto sulla lotta all'evasione tariffaria, mettendo nelle metropolitane tornelli non scavalcabili anche all'uscita e rimettendo sull'autobus il caro vecchio bigliettaio. Che... Ma non crediate che il tramviere sia una cosa facile? A fare il tramviere una specie di Olimpiadi? Alfio Marchini. Già sono scendendo il piano per ricominciare, usando l'estate, a rimettere a posto le prime strade su Roma. E tutto quanto riguarda il resto, tutto verte su un ragionamento molto semplice. Bisogna fare in modo che in questa città sia conveniente comportarsi bene in modo virtuoso. Come? Chi mette a posto la strada dovrà anche pagare con le sue tasche gli interventi di manutenzione, vedrà che non tapperanno più le buche con la sabbia, per cui dopo due gocce d'acqua c'è il buco, metteranno materiale buono perché poi saranno loro le imprese e dovranno pagare. Stefano Fassina. Innanzitutto bisogna trovare i soldi. Quindi il primo obiettivo è rinegoziare il debito del Comune di Roma, che oggi consiste innanzitutto di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti sottoscritto a un tasso di interesse assurdo, ingiustificabile del 5%. Possiamo liberare 250 milioni di euro all'anno e utilizzare in bilancio per ridurre l'IRPEF, addizionale comunale all'IRPEF, per dimezzare la Tari per negozi e botteghe artigiane in difficoltà, per rilanciare gli asili nido a Roma e stabilizzare le operatrici. Buonasera o felicissime sere ai lor signori incravattati a dovere, a chi c'è debiti di gioco e si ritrova dietro chi gli muove i fili come mangia fuoco. Il momento in cui lei ha sul tavolo un appalto che deve dare, come farà a sapere se poi la malavita non si è inserita? Perché noi sappiamo che la malavita va dove ci sono i soldi, dove c'è il potere. Virginia Raggi. Sicuramente il rispetto della norma. Una cosa che oggi non è mai avvenuta è stata proprio quella di rispettare la legge sugli appalti, le gare pubbliche spesso a Roma non venivano fatte, l'amministrazione non le bandiva e continuava ad assegnare appalti con l'urgenza tramite proroghe di servizi, affidamenti diretti, e quindi è facile che con questi metodi poi qualcosa, come dire, sfugga. Allora basta applicare la legge. Roberto Giachetti. Ma innanzitutto noi faremo una centrale unica degli appalti, e questa è una delle indicazioni che arrivava dal lavoro fatto da Sabella prima, che era l'assessore alla legalità del Comune di Roma, ma anche sono le indicazioni che arrivano dall'autorità anticorruzione, e quindi questo è un primo elemento. La migliore forma per evitare la corruzione è quella di essere in grado di controllare. Il Comune di Roma non ha proprio avuto alcuna capacità di controllo. Una volta che si è firmato e si è fatta una gara e si è vinto un appalto, il problema è vedere se poi quell'appalto funziona, cioè se viene fatto nei tempi e nei modi che sono previsti dalla gara d'appalto. E spesso e volentieri è proprio lì che si annida la corruzione. Giorgia Meloni. Intanto bisogna evitare tutte quelle procedure che facilitano la corruzione, l'opacità che c'è attorno a determinati meccanismi, per cui io voglio sostanzialmente ridurre al lumicino tutto quello che riguarda, o abolire completamente tutto quello che riguarda l'affidamento diretto, la somma urgenza. Solamente nel 2014 il sindaco Marino ha affidato appalti per 100 milioni di euro in somma urgenza. Somma urgenza vuol dire oddio, e adesso non so come risolverlo, fallo tu. È evidente che lì, insomma, capisce bene che è molto più facile che si annidi la corruzione, che i lavori non vengano fatti come devono essere fatti, che dandosi dei paletti che impediscono anche a quelli che tu consideri persone affidabili, nel dubbio non si fidiamo, ecco, si dice a Roma, di lasciarsi andare, ecco, si fa soprattutto con le regole. Per un pugno di euro. Alfio Marchini. Tanto quello non abbiamo fatto, l'abbiamo già fatto noi, presentato e fatto approvare all'unanimità nella passata consigliatura una delibera sull'anagrafe dei lavori pubblici, cioè la possibilità al cittadino di sapere esattamente quali sono i lavori, chi li fa, come li fa e in che modo li fa. Noi poi presenteremo nelle prossime ore una squadra straordinaria, ci sono tutte persone di specchiata professionalità, di altissimo rigore, che daranno chiaramente il senso di come con noi veramente la musica cambierà. Stefano Fassina. Noi abbiamo una proposta, costruiremo un albo pubblico sul sito del comune di ingegneri, architetti, geometri, urbanisti, avvocati, commercialisti, e da quell'albo estrarremo a sorte i componenti di ogni commissione per i bandi e per le gare d'appalto, e poi li sostituiremo la volta successiva. Sarà un modo per ridurre i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata. Io ho difeso Roma, il paese mio, e lei ce lo sa meglio da me. Insomma, eccellenza, se andiamo a strigne, che abbiamo fatto di male? Sta creatura manca a dirlo, ma io che ho fatto? Ho voluto bene a Roma, e beh? E da quando in qua la morte patria è diventato un delitto? Nella campagna elettorale romana è entrata a piesso spinto anche la maternità e la discriminazione delle donne, in una sfida tutta interna al centrodestra. Con l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, allora candidato di Forza Italia, poi ritiratosi, che attaccava Giorgia Meloni incinta. Assolutamente sì, si può fare una cosa che tante donne mi avevano annunciato, tante donne che prima di me erano diventate madri, e cioè che la gravidanza ti dà anche una forza straordinaria, ti dà un'energia straordinaria, ti dà una grande sensibilità, bene o male, insomma, battono due cuori, no? E quindi questo qualcosa vorrà dire. Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Ma quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avessi di speciale? Altra questione, gli avvisi di garanzia arrivati ai sindaci 5 Stelle Filippo Nogarin e Federico Pizzarotti, che potrebbero comportare anche l'espulsione dal movimento. Virginia Raggi risponde così. Ma non rispondiamo ai se e ai forse, arriviamoci, se del caso, perché io non credo che arriveranno. Ora tocca a te, il tuo voto è la linfa del cambiamento, il motore della rinascita. La lettera d'amore a una città abbandonata. No, ragazzi, fermi tutti. A Francesco, ma di che stiamo a parlare? Ma che sono, attore io? È una telenovela. Idee pazze non ne mancano, da liberare le sponde del Tevere da ratti e baracche per le passeggiate ai romani di Giorgia Meloni, alla funivia Casalotti Boccea, firmata Virginia Raggi, allo spot elettorale di Giachetti in cui dice di non essere un attore, ad Alfio Marchini, che invece non vuole celebrare le unioni civili. La mia massima è quella di Sant'Agostino, ama e fa ciò che vuoi, quindi grande e assoluto rispetto verso chiunque, ci mancherebbe altro. Io penso che l'omofobia sia una delle più grosse, più sciocche, più stupide, più dannose e più incivili in una città. Questo non c'è un mio dubbio, così come ognuno deve avere riconosciuti i propri diritti. Se però lo spirito di questa legge è quella di equiparare una famiglia, io dico che secondo me, dal mio adesso punto di vista, un bambino debba avere un padre e una madre, e su questo è il mio unico punto su cui mi sento in disaccordo rispetto allo spirito di questa legge. E ci sono anche stavolta le divisioni a sinistra, con Stefano Fassina che dichiara di non voler appoggiare Giachetti al ballottaggio. Temo che chi vota per noi non trovi sostituti negli attuali candidati, che sono molto poco attenti alla questione sociale, cioè al problema del lavoro, della diseguaglianza, della povertà che attraversa Roma. Super Cafoni! Il sole integrale al mare, un balcone o la classe serale dei Super Cafoni, giovani coatti come Manuel Fantoni. In tutto questo la città è sempre più sporca, Ostia è stata sciolta per mafia, le periferie sono abbandonate a se stesse. Ma anche il centro storico non se la passa bene, orde di turisti barbarici l'attraversano ogni giorno, intrappolati in finte trattorie dal menù bilingue, con cibo scadente e negozi con pasta tricolore e limoncello in stivali di vetro, quello che nessun italiano e nessun romano comprerebbe o mangerebbe mai. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.